670. Budino gabinetto. Questo è un budino che sa di diplomazia. Il nome lo indica e lo indicano altresì la complicazione sua e il suo sapor multiforme. Lo dedico perciò al più grande dei diplomatici, all'idolo del giorno. Il mondo, già si sa, vuole sempre un idolo da adorare. Se non l'ha, se lo forma, esagerandone i meriti all'infinito. Ma io che sono incredulo per natura e un poco anche per esperienza, dico come diceva colui: dammelo morto e poi ne ragioneremo. Quanti ne abbiamo visti nell'età nostra degli idoli o astri di grande splendore, che poi tramontarono presto o caddero ignominiosamente. Quando scrissi questo articolo, ne brillava uno ammirato da tutti, ora scomparso dall'orizzonte. Dose per 10 persone. Latte 1 litro, zucchero grammi 100, savoiardi grammi 100, uva Malaga grammi 80, uva sultanina grammi 50, conserva di albicocche grammi 50, detta di cotogne grammi 50, candito grammi 20, kirsch mezzo decilitro, rossi d'uovo numero 6, chiare d'uovo numero 4. Fate bollire il latte per mezz'ora con lo zucchero dentro. All'uva Malaga levate i semi, il candito tagliatelo a piccoli dadi e così le conserve, se fossero sode. Il che in questo caso sarebbe meglio. Bruciate le uve e il candito col rum, come nel biscotto alla sultana numero 574. Dopo che il latte avrà bollito, lasciatelo ghiacciare e poi aggiungeteci le uova frullate e il kirsch. Prendete uno stampo liscio a cilindro, ungetelo tutto col burro ghiaccio. E riempitelo nel seguente modo. Copritene il fondo con uno strato di detta frutta e sopra distendete un suolo di savoiardi, poi altra frutta e conserve, poi altri savoiardi e così di seguito finché avrete roba. Per ultimo, versate adagio il latte preparato nel modo anzidetto, cuocete il dolce a bagnomaria e servitelo caldo. Qualcuno dice che questo budino, se non vuol defraudare il suo titolo di gabinetto, deve comparire in tavola tutto chiuso, cioè tener nascosto il ripieno, come si tengono occulti i segreti della politica. Se lo fate in questa maniera, prendete grammi 140 di savoiardi, dovendosi con essi coprire il fondo. Cingete lo stampo all'intorno e intramezzate con quelli che restano le frutta all'interno. Vi avverto poi che quando il latte entra nella composizione di un piatto, malamente si possono dare indicazioni precise. Esso è di natura tale che spesso e volentieri forma la disperazione dei cuochi.